Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti e buon lunedì. Apriamo la Intanto no. Facevo un cenno di là in regia perché sento un rimbombo alle cuffie. Stamattina cominciamo bene. Rintronata da weekend, chissà. Buona settimana, esatto, agli ascoltatori di Cuore Denari. Apriamo la settimana di Cuore Denari pensando a tutte quelle mamme che riprendono a lavorare dopo un weekend passato con i propri bambini. Sappiamo che può essere difficile per tanti motivi separarsi dal proprio bebè. Anche gli aspetti organizzativi non sono da sottovalutare. In alcuni casi ci sono i nonni ad aiutare, lo sappiamo, altrimenti l'asilo, la materna o la babysitter. Al tempo stesso, per tante mamme, la dimensione professionale e lavorativa è molto importante, quindi tante donne scelgono di tornare il prima possibile o si trovano a non poter posticipare il proprio ritorno al lavoro, di non fruire del congedo parentale, la cosiddetta maternità facoltativa. In questi casi si può fare qualcosa, c'è la possibilità di fruire, in alternativa appunto al congedo, del cosiddetto voucher asilo nido o babysitter, un contributo che si richiede all'INPS, vale 600 euro al mese per 6 mesi, si può utilizzare per pagare la retta del nido o appunto per retribuire la babysitter. Da una settimana è possibile fare le richieste. Oggi nella prima parte della nostra trasmissione torniamo a spiegarvi come funziona questo strumento, chi può accedere, come si ottiene il bonus, naturalmente rispondendo a tutte le vostre domande all'800 24 00 24. Invece, Deborah, nella seconda parte della trasmissione parleremo di un amico molto importante, un amico di infanzia, direi ancora più di infanzia, un amico che è nato con noi, un amico sensibile, generoso, appassionato, sincero, ci accompagna in ogni istante della nostra vita, ama, ride, soffre con noi, parlo del nostro cuore. Oggi gli dedichiamo un'intera puntata, se lo merita, impareremo ad ascoltarlo, parleremo dei suoi gusti, delle attenzioni, delle cose che gli piacciono e di quelle che invece gli danno fastidio, lo mettono disagio e in pericolo. Allora, 800 24 00 24. Conoscete il vostro cuore? Ad esempio il numero di battiti che compie al minuto? I valori della pressione che esercita per far circolare il sangue nel corpo? Sapete riconoscere quando è affaticato o stanco? E per caso lo avete visto di recente su un monitor durante l'esame di un ecocardiogramma? 800 24 00 24. Se avete a cuore il vostro cuore, chiamateci, raccontateci avventure e disavventure di questo organo straordinario. Ne parleremo tra poco nella seconda parte della trasmissione, perché si apre oggi la settimana di cardiologie aperte e della banca del cuore, ideato ad Anco e dalla Fondazione per il tuo cuore. Avremo a disposizione 600 strutture disposte un po' su tutto il territorio nazionale e vi racconteremo che cosa potete andare a misurare recandovi in una di queste strutture. Tra poco. C'è sempre tanto da fare e lunedì è la giornata giusta anche per fare un po' di pianificazione di tutto quello che dovremo fare nei prossimi giorni. Una settimana è iniziata proprio da pochissimo. 800 24 00 24. Noi chiediamo in particolare ai genitori, ai giovani genitori, quante cose avete già fatto? Avete già portato il vostro bimbo, la vostra bimba al nido per poi correre al lavoro? Oppure avete aspettato in casa la babysitter? Le avete già dato o già passato le consegne della giornata? Raccontateci se queste esigenze nasceranno tra poco, al termine dei mesi di maternità. La salutiamo, la nostra amica che ha avuto un bebè proprio ieri volentieri sera, la nostra Laura Faggin, che è insomma assistente a tanti programmi di Radio 24. È un nato bel libero Alberto. Bene. Bambino magnifico. Perfetto. Allora, ribadisco, raccontateci se avete queste esigenze o se queste esigenze si presenteranno tra poco al termine dei mesi di maternità e se avete già deciso come organizzarvi, se chiedere il voucher per l'asilo nido, la babysitter. Da una settimana è possibile chiedere questo contributo all'INPS, il contributo 2016, come alternativa alla fruizione del congedo parentale. Questa misura, lo ricorderete, è stata introdotta in via sperimentale nel triennio 2012-2015 e poi è stato prorogato questo bonus anche per quest'anno dalla legge di stabilità, che lo ha esteso anche alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici. Cuore Denari subito sul pezzo, pronto a spiegarvi le modalità per farne richiesta e soprattutto per spiegarvi come si fruisce di questo contributo. Matteo Prioschi del Sole 24 Ore, ciao, ben ritrovato. Buongiorno a voi. E ben trovata anche a Valentina Paluzzi, operatrice del patronato INAS CISL. Buongiorno e benvenuta. Benvenuta. Buongiorno. Eccoci qua. 800 24 00 24. Intanto ribadisco tutti i riferimenti per i nostri ascoltatori per chiamare in diretta. C'è già chi arriva? Potete chiederci, contattarci anche via WhatsApp 349 238 6666, e leggeremo naturalmente i vostri messaggi. Ci sono già chiamate all'800 24 00 24 e quindi siamo pronti. Prontissimi. Debora. Allora, le mamme interessate che si trovano negli 11 mesi successivi alla fine del congedo obbligatorio possono presentare da qualche giorno domanda rinunciando ad un equivalente periodo di congedo parentale per non oltre 6 mesi. Matteo, comincio subito da te, che stai scrivendo tanto di questo argomento per Il Sole 24 Ore. Ricordiamo i parametri fondamentali, intanto a quanto ammonta il contributo. Allora, il contributo ha un importo massimo di 600 euro al mese, può essere appunto richiesto per un massimo di 6 mesi, con una limitazione per le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'INPS, quindi sono libere professioniste piuttosto che collaboratrici, per loro la durata massima è di 3 mesi, quindi un periodo dimezzato. No, funziona esattamente come peraltro l'operazione precedente, anche questa volta c'è un plafond disponibile. Sì, assolutamente tutto uguale, in buona sostanza il regolamento e anche le indicazioni fornite dall'INPS sono rimaste pressoché le stesse. Il plafond è 20 milioni a disposizione appunto per tutto il 2016. E la novità di quest'anno è che sono stati previsti ulteriori 2 milioni che serviranno per il bonus voucher babysitter. Per le lavoratrici libere professioniste o imprenditrici, però per questa categoria diciamo non è ancora attivo. Non abbiamo ancora le istruzioni operative perché per renderlo l'estensione è stata prevista una legge stabilità che a sua volta prevede un decreto ministeriale che dovrà stabilire modalità e regole di accesso. Una volta che si è pubblicato questo decreto ci sarà un messaggio dell'INPS che comunicherà poi le modalità. Nel frattempo i bambini crescono. Esatto, no, poi arriva la bella notizia per le lavoratrici autonome che noi auspichiamo sempre, sì. Però è sempre buona notizia a metà, sempre un po' insomma partenza con il primo anno ci vorrà un po'. Vabbè, speriamo nel secondo. Vabbè, senti, allora anche l'altra volta, lo scorso anno, erano disponibili 20 milioni di euro, però l'INPS non ha mai diffuso il numero delle famiglie o delle mamme, dei papà che sono stati accontentati con quel plafond. Però avevamo una notizia di metà dicembre, quando l'INPS aveva reso noto che le domande inoltrate dopo dopo questa data, 15 dicembre, non sarebbero state accolte. Segno che comunque i fondi erano stati utilizzati tutti allora. Sì, esatto, sono stati utilizzati tutti, quindi il voucher ha avuto successo, si è dimostrata uno strumento valido, così come erano stati esauriti quelli del 2014. Peraltro c'era questa, diciamo, opzione prevista dalla normativa, cioè si potevano distribuire tutti i fondi rispettando il plafond massimo di 600 euro, oppure il governo avrebbe potuto decidere di ridurre il plafond per accontentare tutti, quindi ridurre da 600 magari a 500, 400, oppure legare l'erogazione a un livello di ISEE, favorendo quindi le famiglie più bisognose economicamente, no? Non c'è stata questa opzione, si è deciso semplicemente di assegnare il bonus, il voucher a valore pieno fino all'esaurimento dei fondi, che appunto quindi vale il principio del chi tardi arriva male alloggia, però insomma esatto, è stato utilizzato, è stato tutto coperto l'anno, quasi tutto l'anno, nella buona sostanza. Non c'è stato il famoso click day. Allora, tra l'altro, un'informazione di servizio interessante per tutti i frequentatori dei social network: c'è proprio su Facebook un profilo che si chiama IMSS Facebook per la famiglia. Sì, esatto. È un sito particolarmente, diciamo, operativo, perché dà la possibilità di presentare delle domande, delle richieste e chiarimenti molto pratici, e gli operatori dell'INPS danno risposte in tempi abbastanza veloci. Perfetto. E quindi chi ha dei dubbi può rivolgersi lì per avere ulteriori chiarimenti poi nel corso dell'anno su come fruire di questo voucher in particolare, ma anche altre iniziative che appunto vanno a favore della famiglia. Allora, tra l'altro, noi appunto stamattina ci focalizziamo solo su questo, proprio perché ci sono delle questioni molto pratiche da spiegare. Intanto, se si opta per la scuola materna bisogna verificare che la scuola sia accreditata all'INPS, se si opta invece per la babysitter, anche in questo caso sulle modalità di pagamento bisogna fare molta attenzione, si passa dal voucher invece in questo caso. Quindi adesso ci andiamo per ordine. Prima di tutto però facciamo una verifica specifica dei requisiti se abbiamo il diritto di ottenerlo. Allora, la domanda, e qua vado subito a coinvolgere Valentina Paluzzi del patronato Inas CISL. La domanda può essere inoltrata solo attraverso il canale online, che è utilizzabile direttamente dai genitori interessati tramite il sito internet dell'INPS con un codice di identificazione personale. Ma Paluzzi, ricordiamo soprattutto che è richiesto il possesso di un ISEE valido, un indicatore della situazione economica equivalente. Ci sono dei limiti specifici sulla situazione economica delle famiglie? A chi, come dire, possiamo consigliare di avventurarsi nella presentazione della domanda e chi invece sa già che non avrà i requisiti economici ed è inutile che la faccia? Sì, nella domanda è necessario dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida. In realtà attualmente non è previsto un limite massimo di tale indicatore per accedere al beneficio. Potrebbe essere previsto, come già anticipato precedentemente, un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un decreto del Ministro del Lavoro, un valore massimo dell'indicatore ISEE per accedere al contributo, nel caso in cui le risorse previste dovessero essere ritenute insufficienti ad accogliere tutte le domande presentate o presentabili nel corso dell'anno. Certo. Quindi se il monitoraggio INPS dovesse rilevare che le risorse si stanno esaurendo, potrebbe essere adottato questo decreto con un valore massimo dell'indicatore ISEE. Beh, intanto qua non avevo fatto caso che abbiamo già scavallato alle 10.46 e quindi è tempo di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Vi accompagniamo anche lì, ma voi tornate subito dopo insieme 800 24 0024 per mettervi in contatto con noi. Vi aspettiamo. Cuore e denari. Ma sai che Daniele non ha mai avuto una babysitter? No, perché? Perché noi tutti questi anni sempre siamo rimasti con lui. Sempre? Siamo mai usciti? Mai. E allora ci siamo letti tutto. Abbiamo letto von Kleist, Hegel, Spinoza, Federico Tozzi. Abbiamo letto Senofonte, tutto Senofonte. E poi abbiamo Erodoto. Tutto Tacito. Tacito, tutto. E allora, povero bambino. Esatto, infatti, già traumatizzato da molto presto. A cuore denari ritorna il voucher babysitter rifinanziato per il 2016 per quelle famiglie in cui da poco è arrivato un bebè o sta arrivando, 600 euro al mese per 6 mesi per pagare il nido o la babysitter. Si può inoltrare la domanda all'INPS già dal 1 febbraio, si potrà farlo fino al 31 dicembre o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento previsto dalla legge 20 milioni di euro, per cui non affrettatevi a farlo oggi. Domani non è un click day, ve la potete prendere anche con calma, anche perché Valentina Paluzzi, patronato Inas CISL, se si opta per la scelta di una scuola materna bisognerà fare una verifica che questa sia accreditata, non si può andare in quella sotto casa e chiedere appunto che prendano come pagamento della retta questo voucher appunto bebè. Come si può fare la verifica appunto che sia una struttura accreditata? C'è un elenco sul sito dell'INPS dove possiamo reperire questa informazione? Esatto, sì, è necessario che la lavoratrice scelga una delle strutture indicate nel sito dell'INPS che si sono accreditate, possono essere strutture pubbliche o strutture private convenzionate. Per il 2014 e per il 2015 si erano accreditate 3.117 strutture che offrono servizi per l'infanzia. La maggior parte sono concentrate nel nord, nelle regioni del nord, nelle regioni del sud sono un po' di meno. E appunto è necessario iscrivere il bambino in una di queste strutture per poter beneficiare poi del voucher. Benissimo. Sotto forma di pagamento diretto da parte dell'INPS alla struttura prescelta. Ecco, esatto, quindi la modalità è questa: noi scegliamo la struttura, poi è l'INPS che si incarica di pagare la retta della scuola prescelta. Modalità invece diversa che viene seguita nel caso in cui dovessimo scegliere la babysitter. Adesso ne parliamo, però facciamo una domanda, Matteo, armiamoci di santa pazienza, facciamo finta di sederci davanti ad un PC e prepariamoci a compilare la domanda. Presentiamo il vademecum delle informazioni che l'INPS vuole da noi per non perdere tempo. Allora, che cosa dobbiamo avere a portata di mano? Sì, sono diverse le informazioni da avere, innanzitutto appunto i dati anagrafici del bambino, e quindi quando è nato, codice fiscale e così via. Se c'è stata un'adozione, bisogna avere i dati anche relativi all'ingresso del bambino in famiglia e se è un'adozione internazionale anche dell'ingresso in Italia. È necessario avere e indicare tutti i dati riguardanti il periodo di congedo parentale eventualmente già fruito sia dalla lavoratrice sia dal marito. Qua è opportuno ricordare che appunto le mamme hanno diritto a un massimo di 6 mesi, ma se sono sposate c'è anche la quota del marito che può arrivare fino a un massimo, accumulando i due periodi, a 11 mesi. Quindi in base a quanti mesi sono già stati fruiti o dalla mamma o dal papà, bisogna calcolare quanti sono quelli effettivamente rimanenti. Quindi potrebbero essere che la mamma ha diritto a 6 mesi, ma se il padre, poni caso, è uno di quelli che sta molto col figlio e ne ha già usati 5, ad esempio, la madre non ha più 6 mesi. Ma ne ha uno? No, ne ha 5, cioè 11. Ah, certo. Cioè bisogna togliere quelli già usati dal papà, quindi 11 meno 6, meno 5, scusate, quelli usati dal papà ne ha ancora 6. Se il papà ne ha usati 7, perché può arrivare a 7, la mamma ne restano 4. Quindi bisogna... Il totale va a 11. 11 cumulativi. Massimo 11, sarebbe 10, massimo 11, perché se il padre ne ha usati più di 5, allora si può scavallare fino a 11. Ci sono delle regole abbastanza rigide. Bisogna tenere presente questo, quindi non è solo quanto ne usate la madre ma anche quanto ne usate il padre e fare la differenza, insomma. Noi facciamo sempre riferimento al congedo della mamma, ma in realtà appunto, uno più visto uno che 11. Abbiamo lottato tanto per questo, anche i papà entrano a pieno titolo in questa e poi bisogna disciplina. Tenere presente appunto anche tutti i dati del padre, esatto. Tipo di rapporto di lavoro, gli rapporti di lavoro, esatto. E i periodi di congedo eventualmente fatti. Intanto c'è Federico da Cugiono, Milano, che ci scrive, ma qualcuno si è mai chiesto dopo quanto tempo l'INPS eroga il pagamento alla struttura accreditata? Mia figlia attende da oltre un anno e se vai all'INPS nessuno ti sa rispondere. Vi sono arrivate segnalazioni, Matteo, di questo tipo? Poi lo chiedo anche alla dottoressa Paluzzi. No, da quello che noi abbiamo visto, cioè ci vuole qualche tempo perché la domanda sia accettata. Possono passare anche un paio di mesi. Dopodiché non ci sono arrivate particolari segnalazioni sul ritardo del pagamento. Lei, Paluzzi, all'INAS CISL arrivano anche segnalazioni di questo tipo, magari di mamme e papà che hanno scelto appunto fruire del voucher per la scuola materna e però sono un po' in difficoltà perché la scuola si lamenta che magari nell'operazione passata il pagamento dall'INPS arriva tardi e quindi magari adesso ci ripensano un po' se aderire ancora. Vi risultano queste situazioni? No, anche a noi non sono arrivate particolari segnalazioni di ritardo nel pagamento della struttura. Benissimo, e allora insomma Federico o è questa scuola di Cugiono oppure magari non lo hanno detto, oppure magari le scuole non lo dicono. Detto questo, andiamo invece al caso in cui invece della scuola materna la famiglia scelga di pagare la babysitter. Dottoressa Paluzzi, allora l'importo lo ritira la famiglia e poi paga la babysitter oppure anche in questo caso il pagamento viene gestito direttamente dall'INPS? Allora, il pagamento della babysitter avviene attraverso il sistema di buoni lavoro, i cosiddetti voucher, che vengono ritirati dalla lavoratrice ammessa alla fruizione del beneficio entro 120 giorni dal provvedimento di accoglimento. Attraverso questi voucher la lavoratrice potrà retribuire la babysitter che potrà incassare il corrispettivo dell'import del voucher presso qualsiasi ufficio postale con un valido documento di riconoscimento entro i 24 mesi successivi all'emissione del voucher. E il contratto di assunzione, collaborazione fra famiglia e babysitter deve avere dei requisiti specifici? Dottoressa Paluzzi, ci sono dei suggerimenti in questo caso per essere attenti che dobbiamo dare alle famiglie italiane? Il sistema per retribuire la babysitter è lo stesso che viene normalmente utilizzato per i buoni lavoro, quindi prima dell'inizio della prestazione lavorativa la mamma che utilizza il servizio di babysitting è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione indicando il proprio codice fiscale, il codice fiscale della babysitter, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa. Chiarissimo, quindi insomma bisogna dare delle informazioni abbastanza precise. Matteo, allora ammettiamo che io inoltri domani mattina la domanda per il voucher all'INPS, optiamo per la babysitter. Entro quanto tempo saprò se ne ho diritto o meno, se me lo erogano o meno, visto che i fondi sono disponibili, perché insomma non è che già in questa settimana i 20 milioni sono andati via, ci sono ancora, però se ho i requisiti più o meno corretti, l'INPS entro quanto completa la sua istruttoria? In genere ci vuole appunto qualche settimana, al più un paio di mesi, dopodiché viene data comunicazione direttamente. Se si è usata un indirizzo di posta elettronica certificato, l'INPS comunica direttamente il provvedimento di accettazione appunto della domanda a questo indirizzo di posta elettronica, altrimenti viene comunicato all'indirizzo mail che si è dato, che sul sito INPS c'è l'elenco delle domande accettate, quindi uno se lo va a vedere poi. Benissimo, allora su questi aspetti ritorniamo dopo il giornale radio, intanto 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta tra poco. Radio 24, Sky e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Cuore e denari. I bambini nell'asilo stanno facendo casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati. Ci vuole un dolcino. Ci vuole lo spiro. Ci vuole un dolcino. Allora, abbiamo impiegato questi minuti di pausa non solo ascoltando il giornale radio Anna Migliorati, ma anche facendo una raccolta delle domande degli ascoltatori, degli sms che ci stanno arrivando, per avere ulteriori chiarimenti sulle voucher babysitter rifinanziato per il 2016 per quelle famiglie in cui è arrivato un bebè da poco, sta arrivando, 600 euro al mese per 6 mesi per pagare il nido o la babysitter. Dal 1 febbraio si può inviare la domanda, lo si può fare fino al 31 dicembre di quest'anno, o almeno fino a quando non si esaurirà lo stanziamento previsto dalla legge 20 milioni di euro. Con noi stamattina ci sono Matteo Prioschi del Sole 24 Ore e Valentina Paluzzi, operatrice del patronato Inas Cisle. Poi tutte le vostre richieste di intervento 800 24 00 24 per intervenire in diretta, oppure ci potete anche scrivere al 349 238 6666 e se proprio non volete spendere nulla, ci abbiamo anche il canale di WhatsApp, per cui veramente infatti non avete più scuse. Allora, c'era quella interessante, Nicoletta, del babysitter parente. Brava, infatti ci scrive un'ascoltatrice: se la babysitter fosse una parente o anche una nonna, ecco, ma qua con regolare contratto, è proprio per fare le cose per bene. Il pensionato che vuole continuare a lavorare molto spesso viene retribuito con i voucher lavoro. Matteo Prioschi, che dice? Allora, l'INPS mi sembra che istruzioni su questo non ne dia. No, non ce n'è. E nel caso di un pensionato comunque c'è possibilità di cumulare appunto la pensione con altri redditi, quindi non... Il buon senso ci dice che teoricamente potrebbe essere possibile. Dottoressa Paluzzi, non voglio metterla in difficoltà, ma ai vostri sportelli è arrivato qualche famiglia chiedendo se la babysitter è la nonna, che succede? Sì, è arrivata qualche domanda in questo senso. E che cosa avete risposto? Allora, che se dopo ricerche che abbiamo approfondito, che se ovviamente la domanda, la richiesta di babysitter è per il padre del bambino, questo non è possibile perché il papà è già tenuto ovviamente ad accudire il bambino. Dovrebbe, vuole prendere l'uno e l'altro, sì, che è ingordo. Assolutamente. Se è per un altro parente invece che non ha quest'obbligo, è possibile, dovrebbe essere possibile. Non abbiamo avuto segnalazioni contrarie poi dalle nostre sedi. Benissimo, l'INPS non dice niente a proposito, per cui chi tace acconsente... Avanti suocere. Esatto. Allora. Beh, mi sembra anche una buona cosa questa, insomma, perché 600 euro, insomma, buttiamole via. Allora, intanto sentiamo anche i nostri ascoltatori. Federico proprio non si dà pace del fatto che, dopo aver scelto la struttura accreditata presso l'INPS, dove naturalmente mettere il suo piccolino come nido, Federico, lei ha scelto questa opzione, vorrebbe prendere questo contributo dell'INPS per pagare la retta della materna, ma buongiorno. Buongiorno. Ecco, allora che succede? Allora, no, la struttura, la mia figlia ha una struttura accreditata. Mia figlia ha... ecco, non è che lei è un papà dove manda il bambino. No. Ah, sua figlia ha un nido. In bacheca, sul mio suggerimento, l'anno scorso, quando era uscito per la prima volta il voucher per l'asilo nido, e alcune famiglie hanno aderito. Ora lei ha fatto tutto quello che doveva fare, i signori hanno fatto tutto quello che doveva fare, ha ricevuto addirittura la conferma che la struttura è accreditata, tutta regolare sull'INPS. Sì, anche loro era tutto a posto, eccetera. Adesso è da febbraio, marzo, quello che è aprile, che ancora non ha ricevuto nulla. Quanti soldini sono in ballo, peraltro, Federico? Quante mamme aveva? Sono circa 5-6.000 euro. Certo, insomma. Cioè, il discorso è che se i giovani si danno da fare, quello che volevo dire io era questo: i giovani si danno da fare, si mettono. Gestiscono tutte le pratiche burocratiche per le quali non avrebbero neanche tanta voglia, giustamente. Rischiano di loro e poi l'INPS non li segue. Certo. Federico, allora, siccome la sua magari ci sono anche altri casi sul territorio, al momento noi raccogliamo solo la sua denuncia, magari così interpelliamo anche, potrebbe essere interessante anche per te, Matteo, per il Sole. Ulteriore sul fronte degli operatori, quindi non tanto dei genitori quanto delle strutture. Benissimo, Federico, grazie per la sua segnalazione, perché la approfondiremo senz'altro. Intanto vado anche a Nico da Bergamo, che non è Nicoletta da Bergamo, perché Nicoletta è qua, anche se noi la chiamiamo Nico. Già, se si chiama Nico, già mi piace. Forza Nico! Però è un signore. Nico, buongiorno. Buongiorno. Ho seguito la trasmissione. Una delle mie domande è stata già chiarita adesso con la storia che una babysitter non ha bisogno di avere delle specifiche credenziali, che può essere anche un disoccupato a caso, qualcuno, certo, o qualcuno nell'ambito che può farlo, e l'avete chiarita. Riguardo al reddito, sì, perché normalmente il problema, mi sa che ho sentito che era già nato l'anno scorso questa storia, però quelli inseriti lo sanno e ne portano, le hanno già usufruito, che di solito sono mai quelli che hanno bisogno veramente, ma sono quelli che lavorano nelle strutture, certo, e conoscono la storia. C'è un limite per usufruire di questo beneficio? L'abbiamo detto all'inizio, Nico da Bergamo. Allora, in teoria, magari lo faccio ribadire a Valentina Paluzzi, lo spiegavamo prima, in teoria no, fino a quando il fondo può accontentare chi fa richiesta, no, dottoressa Paluzzi, mi pare di capire che il limite reddituale non sia previsto. Nel momento in cui, certo, che a fronte di 20 milioni di euro disponibili arrivano richieste per 50 milioni, lì si dovrà fare una graduatoria per accontentare, forse l'ISE, la situazione reddituale e patrimoniale chiaramente avrà un suo peso, no? Però siamo ancora nell'ordine di considerazioni di buonsenso nostre. Sì, esatto. O altrimenti potrebbe accadere come lo scorso anno, che quando le risorse sono terminate, l'INPS poi non accetta la presentazione di nuove domande. È successo però, come ricordavamo prima, a metà dicembre, per cui in realtà c'è stato quasi tutto l'anno di tempo per fare domande. Però per rispondere appunto a Nico da Bergamo, al momento non ci sono, Matteo. È un valore che va indicato, ma che al momento non viene utilizzato come elemento di discrimine. Nico dice genera un po' di sospetto il fatto che questo documento lo vogliano, perché comunque insomma è solo in una situazione di emergenza, di overbooking delle domande. Che faranno probabilmente scattare anche la graduatoria in base ai requisiti economici. Allora, rifacciamo un ABC sulle questioni che ci ponevamo, Matteo, a microfono spento. In quali casi, secondo te, vale la pena? Poi è chiaro che sono delle scelte personali della famiglia, vabbè, a prescindere se uno preferisce la babysitter o la scuola materna, eccetera. Però ci sono delle situazioni in cui forse è meglio optare per la babysitter, perché magari questo voucher, essendo spendibile nel giro di 2 anni, la babysitter la si può utilizzare anche in un momento successivo al congedo parentale. È più flessibile. Sì, di sicuro è più flessibile. Allora, i 2 anni sono a disposizione della babysitter per incassarli. Ecco. L'utilizzo può essere rimandato nel tempo, appunto, una volta che il genitore ha chiesto e ottenuto i voucher, poi li distribuisce nell'arco del tempo come meglio crede. Quindi sicuramente il voucher utilizzato con la babysitter è molto più flessibile. Dall'altra parte, il limite principale delle strutture è che uno deve avere la struttura accreditata, diciamo, sotto casa, comunque deve essere comodo avere un asilo che appunto è convenzionato e quindi può utilizzare questo contributo economico e pagare la retta. Cioè, da una parte, se uno va già a quell'asilo o comunque a un asilo comodo, certo, non sborsare tutti i mesi 600 euro può essere un aiuto non indifferente. Infatti. Dall'altra parte c'è il limite, appunto, che si deve stare in quella scuola, perché poi cambiarla diventa complicato e la possibilità di scelta è ridotta rispetto invece alla babysitter, che la si usa quando e chi, come, quando si vuole. Dottoressa Paluzzi, parto gemellare, doppio bonus? Se viene richiesta per entrambi i figli, sì, può essere presentata una domanda per ogni figlio, visto che il congedo parentale, che è la, appunto il congedo alternativo al voucher, è riconosciuto per ogni figlio, si può presentare domanda per ogni nato, purché ricorrano per ogni figlio i requisiti che abbiamo indicato questa mattina. Noi stiamo andando tra l'altro verso la chiusura, per cui per tutte le domande che necessariamente saranno rimaste fuori, che non riusciamo a soddisfare per i nostri ascoltatori, scriveteci a cuoredenari@radio24.it e vi risponderemo come sempre in privato. Nicola ci scrive: mio figlio dovrebbe nascere a luglio, scusate, da che età del bimbo e fino a quanti anni può essere utilizzato il voucher? Allora, ci sembrava di essere stati chiari, ma in realtà forse vale la pena soffermarsi ancora. Stiamo parlando di nido, materna, per cui entro i primi 3 anni, no? E soprattutto il tema però è il vincolo, è il congedo parentale che può cui può fruire il genitore. Esatto, cioè allora, il primo vincolo è legato a quando uno può fare la domanda, e quindi sono il periodo entro 11 mesi successivi al congedo obbligatorio di maternità, quindi dal quarto mese, per intenderci, al 15° mese dopo la nascita del bambino si può fare domanda. Dopodiché, se uno lo usa per la materna, cioè per l'asilo nido, ovviamente deve essere speso durante il periodo in cui il bambino va all'asilo nido, mentre se per la babysitter può anche scavallare più in là. Comunque c'è una precisazione importante, interessante, che appunto c'era sul sito dell'INPS che avevamo citato prima, quello della di Facebook, il sito Facebook dell'INPS, cioè che uno può fare domanda dentro appunto gli 11 mesi. Poi non è obbligatorio che il bambino stia già andando alla scuola durante gli 11 mesi, ma che sia iscritto. Cioè io posso fare domanda oggi perché il bambino l'ho già preiscritto, e poi magari inizia ad andare ad aprile. Esatto, però io l'ho già iscritto e lo mando poi un po' più avanti. Esatto, l'INPS paga la struttura da aprile in avanti, cioè deve sapere da quando il bambino inizia la frequentazione. Certo. Avevamo la storia della mamma sola, della famiglia monogenitoriale. Allora lì non ci sono particolari agevolazioni, perché il voucher dura comunque massimo 6 mesi. La differenza è che il genitore solo ha diritto a 10 mesi di congedo parentale, e quindi una volta esauriti i primi 6 o tutti i 6 di bonus, ne restano 4 che può comunque usare come congedo parentale. Allora, io ringrazio Matteo Prioschi e Valentina Paluzzi per essere stati con noi. Dottoressa Paluzzi, grazie molte, soprattutto per la chiarezza delle sue risposte. Magari torneremo a stressarla più avanti, a chiedere di nuovo la sua collaborazione per altre informazioni di servizio per i nostri ascoltatori. Intanto buon lavoro, buon lavoro ai vostri sportelli, che so che sono sempre molto molto gettonati e ricercati. Grazie ad entrambi, grazie Matteo, buon grazie lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Allora, seconda parte di Cuore Denari, inizio subito a fare gli inviti 800 24 00 24 per intervenire in diretta e parlare del vostro cuore. Attenzioni, precauzioni, avvertenze, ma anche segnali, sintomi e carta del rischio. Parleremo della salute di questo organo dall'A alla Z. Allora, misureremo il suo ritmo, daremo una controllatina alla pressione e anche al colesterolo. Per questo ho invitato un grande esperto, il dottor Michele Gulizia, presidente dell'ANCO. L'ANCO è l'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, e tra l'altro il dottor Gulizia è anche direttore della divisione di cardiologia all'ospedale Garibaldi di Catania. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Intanto dottor Gulizia, anticipo subito ai nostri ascoltatori che lei non è venuta a mani vuote, anche lei ha un invito da fare agli ascoltatori di Cuore Denari, che da oggi sino al 14 di febbraio in più di 600 strutture ospedaliere potranno effettuare screening cardiologici gratuiti, incontrare cardiologi, fare 2 chiacchiere con loro, ricevere consulenza sulla prevenzione primaria e secondaria. Faccio un invito ufficiale, intanto io ricordo ai nostri ascoltatori che se vogliono sapere le strutture che aderiscono all'iniziativa possono andare sulla nostra pagina, dove troveranno il link, e dato che il cuor contento il ciel l'aiuta, invito anche a mettere un like al nostro profilo Facebook. Ottimo. Che dici? Assolutamente. Allora dottor sempre. Gulizia, faccia gli inviti per bene. Sì, grazie. Oggi inizia la settimana di prevenzione per il cuore, che noi come consuetudine ogni anno nella settimana di San Valentino portiamo avanti nelle oltre 600 cardiologie italiane. È una grande kermesse perché ognuno organizza sempre qualcosa di diverso. Quello che è il life motive, denominatore comune per tutti, è che noi per tutti eseguiamo screening gratuiti e soprattutto parliamo molto con i nostri concittadini. Parliamo di mangiare sano, di come muoversi di più, parliamo di fumo, di come mantenere giovane il nostro cuore, di cosa fare, ahimè, dopo un infarto, di come curare lo scompenso cardiaco e come curare o prevenire la fibrillazione atriale, che sappiamo che è una delle prime cause che purtroppo provocano l'ictus cardiaco, l'ictus cerebrale, scusate. Insomma, dottor Gulizzi ha fatto una sorta di sommario della puntata di oggi, 800 24 00 24. I nostri ascoltatori si sono già prenotati per intervenire in diretta, ma dottore, noi siamo a Cuore Denari e anche il cuore alla sua banca, la banca del cuore. È un registro elettronico in grado di raccogliere i dati clinici dall'elettrocardiogramma, pressione arteriosa, di ogni cittadino italiano. Ci racconti un po', dottor Gulizzi, come funziona e ci dia anche un buon motivo, ecco, per i dati, per mettere i dati, i nostri dati, i dati del nostro cuore in banca. È un buon investimento, chiederebbe Deborah. Che rendimento ci produce? Direi che il rendimento è altissimo, perché intanto spieghiamo cos'è. La Bancomat, in analogia con la ben più famosa carta di debito, il Bancomat, altro non è che una card di plastica che però reca dentro nella sua faccia posteriore un codice identificativo univoco, il codice fiscale del cittadino e poi c'è una parte che va grattata che è la password. Quando il cittadino si reca in una cardiologia che è convenzionata appunto alla banca del cuore, riceve questa card, fa l'elettrocardiogramma, quindi l'elettrocardiogramma entra dentro questa grande cassaforte, questo registro, e lui riceve anche delle informazioni e delle domande. Le domande sono se ha sofferto di un pregresso infarto, di uno scompenso, di una fibrillazione. Tutti questi dati, insieme al valore della pressione arteriosa, vengono inseriti dentro la card, in questo grande registro, in questo grande database che è unico al mondo, il primo al mondo, e quindi diventano consultabili. Quando il cittadino, attraverso una connessione internet dal computer piuttosto che dal telefonino, un tablet, si collega alla banca del cuore, mette le proprie credenziali, ovvero il proprio codice fiscale e la password, e può rivedere il proprio elettrocardiogramma, stamparlo, farlo vedere al suo medico, dare le credenziali a un medico di pronto soccorso in una situazione di emergenza e quindi permettere la comparazione con i dati della pressione normale del proprio elettrocardiogramma e sicuramente dare un riassunto molto veloce delle patologie sofferte. Quindi è come avere un rendimento a basso costo. Un'istantanea della salute del proprio cuore. Siamo tutti invitati, tutti possiamo fare questa cartina del cuore. 800 24 0024, ma quello che potete fare oggi, porre la vostra domanda al nostro esperto, raccontarci la vostra esperienza. Il dottor Gulizzi ha anticipato i temi che tratteremo nel corso della nostra puntata. Chiamateci per dirci come batte il vostro cuore, per misurare per magari misurarlo proprio in diretta con le indicazioni del nostro esperto, perché il numero dei battiti che compie in un minuto è importante. Diteci anche dove sentite il cuore, se dovete andare a cercarlo, si fa sentire da solo, magari in gola, nell'orecchio, come una specie di battito d'ale, un frullio nel petto. Dottor Gulizzi, io ho invitato i nostri amici a raccontarci come si comporta il cuore, descrivendoci un po' i segni che dà, ma ci sono anche altri parametri importanti che non si sentono ma si misurano e si leggono attraverso controlli, esami. Anche di questo parleremo oggi, dottor Gulizzi. Intanto, certo, diamo qualche indicazione. Soprattutto parliamo del problema della dispnea, cioè questa fame d'aria che può venire a alcuni pazienti, alcuni soggetti, e che può essere un sintomo importante di una malattia cardiaca, così come avere improvvisamente i piedi e le gambe gonfie, oppure il famoso cardiopalmo, questo sfarfallio all'interno del petto che qualcuno ogni tanto soffre, o ancor peggio il dolore franco al petto, che ci deve sempre far andare subito dal medico, perché non bisogna mai trascurarlo. Magari si tratta pure di un inizio di bronchite, che comunque è un'affezione importante da curare, o di una semplice pleurodinia, cioè di un'infiammazione banale dovuta al freddo di questi tempi, delle pleure, dei polmoni, ma anche dei nervi intercostali. Ma meglio tanto rumore per nulla e bravo, non dire se fossi andato in ospedale prima, perché l'infarto oggi si può curare bene, ma soprattutto si può prevenire. Allora abbiamo Deborah, Massimo che ci chiama da Roma. Certo. Poi si potrebbe andare anche a fare un saltino a Verona. Da Delia, se ci ospita, che dici? Allora, iniziamo da Delia. Sì, sì, cominciamo con Buongiorno. Delia. Buongiorno. Benvenuta. Complimenti per la trasmissione. Ma complimenti a lei che sceglie il programma giusto, Delia. Allora, le faccio questa considerazione. Mi permetto, è per mio figlio, ha 13 anni. Sì. Ha sempre fatto sport. L'anno scorso, a settembre, ha fatto la visita sportiva per l'idoneità del calcio. E non è passato perché gli hanno riscontrato numerosi BEV. Abbiamo fatto un sacco di esami e anche l'Holter è risultato che ne ha 20.000 in una giornata. Poi sì, durante l'elettrocardiogramma a sotto sforzo queste aritmie spariscono. Durante lo sforzo queste aritmie spariscono. Niente, volevo capire se non può più fare sport. Se... Oppure magari non a livello, no, così quasi professionale. Delia, allora mettiamo il caso nelle mani del dottor Gulizia, che intanto ci dà qualche indicazione per interpretare la situazione del figlio di Delia. Dottor Gulizia, certo. che cosa succede? Beh, è un caso abbastanza frequente. Intanto chiariamo ai radioascoltatori cosa sono le BEV. Le BEV sono le extrasistoli ventricolari, cioè sono dei battiti in più che partono da uno dei due ventricoli. Spesso queste extrasistoli, soprattutto nel giovane, magari nel giovane stressato, sono anche abbastanza presenti. Certo, 20.000 sono tante, non sono così tante, ma sono tante. Uno dei motivi che può portare a una extrasistolia ventricolare così frequente è il fatto che i giovani spesso non sanno dosare le proprie forze e vanno in super allenamento, e questo potrebbe essere dimostrato dal fatto che durante lo sforzo, cioè mentre il ragazzo ha fatto il test da sforzo che serve per monitorare l'elettrocardiogramma e i valori di pressione, oltre che i sintomi, durante uno sforzo su un tappeto rotante o su una bicicletta ferma per vedere dove arriva e quali sono i parametri misurabili, questa extrasistolia scompare, quindi diciamo che questa extrasistolia sembra essere benigna. Una cosa che va assolutamente accertata, se non esistono cardiopatie sottostanti, ma questo penso che sia stato ben accertato, altrimenti non avrebbe potuto fare sport agonistico, probabilmente una dieta sana, magari ricca di anche antiossidanti, un po' più povera di proteine, ma soprattutto ricca di frutta, verdura e pesce, e riducendo l'attività sportiva, l'allenamento, le ore di allenamento, cui spesso i ragazzi sono gravosamente caricati, sì, questo probabilmente potrà ridurre le extrasistoli. Allora, parleremo del ritmo, a volte il nostro cuore perde un po' il ritmo, a volte il ritmo accelera, perde qualche colpo, 800 24 00 24. Avremo Massimo che ci aspetta, ma noi dobbiamo andare a misurare il polso dei mercati. Guarda, oggi è veramente altro che extrasistole. Vedendo un'altra giornata che... Altro che dottor Gulizia qua ci vuole. Qua adesso mandiamo i mercati a... Com'è che si chiama l'iniziativa della settimana? Andiamo. Cardiologie aperte. Certo. Tra poco. Cuore e denari. Alla base di ogni storia di amicizia c'è l'ascolto, e allora riprendiamo questa seconda parte di Cuore Denari, che è tutta dedicata alla salute, dalla A alla Z del nostro cuore, iniziando a sentire la sua voce. Eccolo eccolo qua, dottor Gulizia, il nostro esperto a nostra disposizione sino alle ore 12. Ascoltiamo il nostro cuore, e è un invito che fanno anche i cardiologi che aderiscono a una bella iniziativa che andiamo a segnalare oggi: 600 strutture ospedaliere che aderiscono alla settimana di cardiologia aperte. Un nostro ascoltatore si è lamentato un po' via SMS dicendo che l'anno scorso a Senigallia non c'era la struttura, quando c'era non funzionava. Dottor Gulizia, come vi siete organizzati quest'anno? Continuo a dire, sono su 828 cardiologie in tutta Italia, ce ne sono circa 600 che aderiscono. Purtroppo nei piccoli centri ogni tanto può capitare, però è perché tutto è fatto nell'ambito della buona volontà e del volontariato, e magari spesso anche l'utenza è molto pretenziosa perché quando ci si mette a disposizione poi si vuole sempre di più. Bisogna capire che sono delle iniziative come quelle che promuovono anche la ricerca sul cancro o Teleton eccetera, che cercano di sensibilizzare la popolazione, per il quale medici, infermieri e tanti altri civili si mettono a disposizione di tutti per cercare di veicolare il messaggio più giusto. Allora, quindi, se no, se non ha la cardiologia più vicina, fa qualche chilometro in più, va in quell'altra. Ecco, oppure 800 24 00 24, oggi potete parlare col dottor Gulizia. Noi intanto abbiamo due amiche da salutare, Deborah. Vero, assolutamente, ci seguono veramente con grande affetto le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta, che noi salutiamo con affetto. Che hanno un posto nel nostro cuore. Andiamo a Massimo, buongiorno da Roma. Intanto iniziate a sentire quanti battiti compie il vostro cuore in un minuto e ne parleremo col dottor Gulizia. Massimo, buongiorno, benvenuto e grazie. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Allora, la domanda è questa. Dopo i pasti, in generale il pranzo soprattutto, associato anche a un gonfiore dello stomaco, il cuore comincia a farsi sentire nel senso che lo sento, no? Quindi magari qualche aritmia, qualche battito un po' più strano, a volte rotola. Qualche salto così, no? Qualche sobbalzo. In particolare il pranzo, soprattutto i pranzi fuori casa, ecco, quando diciamo nell'ambiente casalino invece queste cose... Ma fuori casa lei mangia un po' di più? Dica non è la una verità. Questione di quantità, non mi aspettavo questa sua domanda, ma non è una questione di quantità. E lui era pronto. Era pronto, adesso vedrai che lei mi chiede così. Voglio abbinarla alla domanda di un'ascoltatrice, di una giovane ascoltatrice. Alice, 38 anni, ci scrive da Trieste. Soffro da anni di dispnea, problema che si è acuito negli ultimi mesi. Alcuni giorni sto meglio, altri invece questa fame d'aria non mi consente nemmeno di dormire. Il mio medico generico ha attribuito il fenomeno al reflusso, di cui soffro da anni. Soffro anche di extrasistoli. Inoltre il medico ha ipotizzato che possa essere anche una componente ansiosa, ma non ha pensato al cuore. Devo preoccuparmi, dottor Gulizia? Due casi che sembrano abbastanza simili. Beh, comincerei dalla risposta a Deborah. No, non deve preoccuparsi, perché l'età gioca sicuramente ad Alice gioca a favore di Alice. Il reflusso gastroesofageo irrita non solo la mucosa gastrica e quella esofagea, ma che sono a contatto anche con il cuore, quindi può irritare anche il cuore, quindi qualche extrasistole e comunque una sensazione dolorosa di disturbo, di bruciore vicino alla zona del cuore. Ci ovviamente sta. Può far pensare anche a quello. Invece Massimo da Roma? Per quanto riguarda Massimo, bisognerebbe chiedere se magari quando è fuori beve qualche bevanda gassata. Vorrei solamente dire questo, è molto semplice. Il cuore è un organo in movimento, batte continuamente. E ovviamente noi non lo sentiamo perché c'è un po' di grasso attorno al cuore, ma perché è perfettamente pendente all'interno del nostro torace. Quando per un motivo qualsiasi, come nel caso postprandiale, per esempio di Massimo, magari lo stomaco gonfia di più come dice lui, e quindi il diaframma, questa membrana che separa le viscere dal torace, quindi dove c'è il cuore che si appoggia, si solleva, il cuore magari batte si appoggia un po' di più sulla parete del torace o dell'addome, quindi battendo noi sentiamo lo scuotimento e questo scuotimento ci mette ansia. Ansia che invece il battito cardiaco che lei poco fa ci ha fatto sentire non ci dà, perché il battito cardiaco è il suono più emozionante che generalmente non riusciamo a sentire. Mette sempre emozione a tutti, ditemi se non è vero. È vero, dottor Gulizia, ed è forse è stato anche per questa ragione che lei ha deciso di fare il cardiologo. Ah sì, io sono innamorato del stregato dal battito cardiaco. Dottore, Deborah ha misurato il polso ai mercati, noi vogliamo misurare il nostro. L'importante è che il cuore batta, no? E che lo faccia bene con il ritmo giusto, né troppo veloce né troppo lento, e che non si metta a fare i saltelli o le capriole, anche se è normale, da quanto lei ci ha detto, che il cuore cambi il ritmo. Allora, partiamo dal numero di battiti, li misuriamo e li contiamo, quanti ne dovremmo avere, perché i nostri ascoltatori ci hanno già scritto tantissimi messaggi, abbiamo bisogno di qualche indicazione semplice e chiara. Allora, i battiti normali vanno da 60 a 99. Sotto i 60 si dice che c'è la bradicardia, cioè il ritmo un po' rallentato, sopra i 99, da 100 in su, la tachicardia, il ritmo accelerato. Ma chi ha il battito sotto 60, e magari uno sportivo, un giovane, una persona allenata, non deve preoccuparsi, perché qualunque battito sotto i 60, tranquillamente anche a 30, a 35, in un soggetto allenato e comunque senza sintomi, quindi senza disturbi, non deve assolutamente fare preoccupare. Viceversa, se il battito invece è molto accelerato, supera i 100, ma non per una condizione di stress o di ansia o perché stiamo correndo, a riposo, e allora sarebbe il caso di andare dal proprio medico curante e magari fare anche un elettrocardiogramma per cercare di capirne le cause. Dottore, a volte il cuore si fa sentire da solo, senza che noi lo andiamo a cercare. Capita così, no? All'improvviso, lo sfarfalia al petto, le palpitazioni, il cuore in gola, sono tutti modi diversi che vengono usati per descrivere quella strana sensazione che proviamo quando improvvisamente sentiamo il nostro cuore. Cioè, ci sono anche persone che lo sentono battere dentro l'orecchio, no? Quando si stendono. Questo non ci deve preoccupare, ma può essere utile capire quando questo succede. Allora, invitiamo i nostri ascoltatori a farlo. Intanto andiamo a sentire la nostra scheda. La domanda è: quando ti pare di sentire il tuo cuore? Andiamo. Dopo che sei stato a lungo in piedi. Di notte, mentre dormi, all'improvviso il battito del tuo cuore ti fa svegliare di soprassalto. Mentre guidi la macchina. Dopo mangiato. Quando fai una rampa di scale. Dottor Gulizia, quali tra le situazioni descritte nella nostra scheda deve catturare la nostra attenzione? Ma direi sicuramente sono due: di notte mentre che dormi, se il cuore improvvisamente ti fa svegliare perché c'è un battito molto veloce, questo deve far pensare, perché può essere anche una tachicardia cosiddetta parossistica, cioè all'improvviso, e per questo dobbiamo poi andare regolarmente dal cardiologo. Quando si fa una rampa di scale, se il cuore si fa sentire perché aumenta i suoi battiti o anche li diminuisce, ancor peggio, o ancora di più ci dà un po' di dolorino al petto, bene, quello è il momento di consultare assolutamente il cardiologo. 800 24 00 24, c'è ancora tempo per prenotare i vostri interventi, come hanno fatto Gianna da Roma e Roberto da Milano. Nell'ultima parte della trasmissione parleremo anche di alcuni segnali. Intanto chiederemo al dottor Gulizia di inquadrare il soffio al cuore. Si scopre per caso, il medico generalmente ci rassicura, ma un po' di timore ci viene. E succede spesso nei bambini, le mamme si preoccupano. Il dottor Gulizia ci ha anticipato che nelle cardiologie aperte avrebbero dato delle informazioni riguardo a fibrillazione atriale e scompenso. Chiederemo quali sono i segni iniziali di questi disturbi. 800 24 00 24, naturalmente spazio a tutte le vostre domande. A tra poco. Cuore e denari. Chi è più ottimista ha un rischio dimezzato di andare incontro a un qualsiasi evento cardiovascolare rispetto al meno ottimista. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno passato in rassegna oltre 200 studi scientifici condotti su questo argomento indagando attraverso quali meccanismi funziona l'ottimismo e verificando che chi è contento e positivo adotta stili di vita più salutari, mangia in modo ordinato, pratica attività fisica e dorme con regolarità. Inoltre, l'ottimismo e il buon umore contribuiscono a tenere sotto controllo la pressione del sangue e altri parametri importanti per restare in salute. Insomma, sembra proprio che guardare il lato positivo delle cose e prendere il sorriso come una filosofia di vita sia una medicina sempre più efficace. Come a dire, cuor contento il ciel aiuta, essere ottimisti fa stare bene. Allora, se oggi avete ricevuto una bella notizia che vi ha sollevato il cuore, condividetela con noi e fate stare bene anche noi, Nicoletta e Deborah di Cuore Denari. In linea abbiamo il dottor Gulizia, presidente dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, pronto a rispondere a tutte le vostre domande. Ad alcune non riusciremo, no, a dare naturalmente una risposta, per questo vi invitiamo a scrivere. Non riusciremo a toccare tutti i temi, come ci sta scrivendo Ornella, perché il dottor Gulizia è nella seconda parte di Cuore Denari, sono 45 minuti, non possiamo spremerlo più di tanto. Tornerà. Dottor Gulizia, che dice? Ma sono a disposizione assolutamente. Comunque mandate pure le domande alla Fondazione per il tuo cuore, www.fondazioneperiltuocuore, cercheremo di rispondere, certo, a tutti. E l'invito è sempre valido, con Cuore Denari chiocciola, noi inoltreremo naturalmente le nostre domande alla Fondazione. Intanto andiamo a Gianna e poi a Roberto. Gianna, sì, buongiorno. Roberto, interessante, perché la questione caffè è sempre molto conflittuale, no? Tra chi sostiene che non faccia bene, esatto, quindi è molto interessante. Gianna, buongiorno. Tutto, buongiorno alle due monelle, Deborah e Nicoletta. I miei rispetti al professore. Sarò breve. Roma, sono di Roma, 63 anni, uno o due volte in piscina, insomma, la settimana. La resistenza è forte, gli elettrocardiogrammi, sia del medico sportivo che quello normale, vanno sempre bene, però il fiato è un po' corto quando salgo le scale oppure quando cammino un pochino a passo più svelto. Ma sarà una questione anche o un pochino di sovrappeso o più che altro, come le ultime vostre frasi, nel senso stato ansioso, un po' di pensieri, un po' di arrabbiaturine, eccetera eccetera, tutto quello che, no, grazie, dobbiamo affrontare ogni giorno, facciamo finta che non c'è. Brava. Allora, dottor Gulizia, prima di andare a berci il caffè con Roberto, quale indicazione, quale spunto le dà il messaggio di Gianna, anche magari per sottolineare dei sintomi che possono individuare alcuni disturbi a cui bisogna fare, certo, particolare attenzione? Beh, il sovrappeso taglia le gambe e il respiro, perché immaginate la differenza di chi è in sovrappeso con un soggetto che è normopeso e che è un soggetto con un peso normale che ha con sé due o tre borse della spesa. Se la signora salisse le scale con due o tre borse della spesa, è ovvio che si stancherebbe, fatica, un po', certo, prima, avrebbe un po' di fiato più corto. Poi magari il fiato corto dipende anche dall'elasticità polmonare. Se negli anni abbiamo abituato i nostri polmoni ad essere elastici, e allora lo conserviamo. Se questo non abbiamo fatto, a maggior ragione a 60 anni non riusciremo ad avere questa elasticità. Comunque la cosa più importante per rassicurare tutti è che quello che deve far preoccupare per uno stato di scompenso del cuore è quando la difficoltà del respiro è grave, quando c'è una sensazione di soffocamento che non cambia, che non recede assumendo la posizione seduta, quando c'è anche dolore o anche oppressione al petto, o quando addirittura tutti questi sintomi sono insieme alla sensazione di svenimento. Ecco, e questo ha, e in questo modo ha delineato un po' il quadro dello scompenso. Andiamo, perfetto, invece, dottor Gulizia, rapidamente a considerare il soffio al cuore. Viene scoperto per caso e produce molto affanno, no? Soprattutto nelle mamme dei bambini. Sì, il soffio al cuore crea sempre molto panico. Il soffio al cuore non è altro che l'auscultazione, quell'apparecchietto che usano i medici cardiologi per sentire il cuore, del passaggio del sangue attraverso le valvole del cuore. Il soffio è normale al 99% dei casi, soprattutto nei bambini che hanno un torace sottile, ed è un'auscultazione normale. Quando invece è patologico, perché una valvola si è sporcata e diventa aspro e rude, allora si fa un ecocardiogramma che ci chiarisce bene qual è la valvola interessata ed eventualmente si fa la terapia del caso. Ma la parola soffio non deve preoccupare, perché un normale rumore che si ascolta nei bambini, negli adulti la presenza di un soffio importante, anche rude e aspro, invece deve far sospettare una malattia della valvola. Andiamo a Roberto che ci chiama da Milano. Buongiorno Roberto, benvenuto. Allora, buongiorno, questo ragazzi. Caffè. Allora, questo caffè, io mi sono accorto 6 mesi fa, qualcosa del genere, che coricandomi la notte sentivo tutti questi bombi in posto, i battiti che andavano e venivano. Allora cosa facevo? Mi tiravo su leggermente sul cuscino e mi sembrava che mi passasse. Allora sono andato a farmi vedere e mi hanno detto che c'è questo extrasistole. E mi hanno proibito di... proprio mi hanno detto, lei deve smettere di bere caffè e anche il tè. Io ho smesso così da un giorno all'altro, sono 2 mesi che ho smesso, non mi ha dato nessun'altra medicina. Non è che vedo dei gran miglioramenti, voglio dire. Va bene, quindi, magari la sera un po' meno, però, ma doveva proprio rinunciarci, dottor Gulizia. Insomma, ma la comunità scientifica sul caffè divide. Chi è fautore e chi è contro. Diciamo che 1 o 2 caffè al giorno nei soggetti che lo sopportano non creano problemi, ma il caffè come il tè è uno stimolante. Se un soggetto ha già un ipertono simpatico, cioè ha una stimolazione sua per conto proprio di quello che è il sistema nervoso simpatico, che è il sistema nervoso quello che fa aumentare i battiti, beh allora bastano poche gocce di qualunque stimolante per peggiorare la situazione. Se magari il soggetto invece è uno di quelli che vengono definiti posapiano, tranquilli, in cui il nervo simpatico è poco stimolato, è più stimolato il nervo vago, quello che fa rallentare il battito, che abbassa la pressione, anche 2 o 3 caffè magari non creano problema, anzi tengono, come si suol dire, sostengono non solo il circolo ma anche l'umore della persona. Quindi non demonizzare il caffè, ma capire perché vengono le extrasistoli. Può essere anche che ci sia del reflusso e il caffè lo peggiora, oppure ci può essere una cardiopatia sottostante aritmogena che va studiata. Dottor Gulizia, in chiusura, proprio per così dare un'ultima informazione ai nostri ascoltatori, ho letto che in occasione delle cardiologie aperte voi cercherete di sensibilizzare anche gli italiani al controllo dei livelli di colesterolo. Certo, assolutamente. Il colesterolo è il primo killer che ci porta all'infarto o all'ictus cerebrale. Ormai la gente ha capito che deve mantenere i valori della pressione sotto i 140 e sotto i 90 per i soggetti normali, sotto i 130 e sotto gli 85 per i diabetici. Pochi sanno invece che di colesterolo si muore, perché il colesterolo sporca le arterie e fa venire l'infarto e l'ictus. E allora i valori quali sono? Bisogna intanto ricercare il colesterolo LDL, che è quello cattivo, quello ad alta, sono le lipoproteine che sono ad alta densità, e questo è importante perché il valore non deve scendere, non deve salire sopra i 115 nel soggetto normale, sopra i 100 nel soggetto che già è un iperteso, anche un diabetico, ma in un soggetto che già ha avuto un ictus o un pregresso infarto o è diabetico ed iperteso non deve stare sopra i 70. Mantenere questo colesterolo così basso previene sicuramente la formazione dell'arteriosclerosi, che sappiamo fa danni al cuore e alla nostra salute. Abbiamo anche dato i numeri, abbiamo chiuso con i numeri. Grazie dottor Gulizia. Grazie per essere stato con noi. Noi, Deborah, torniamo domani. Ma direi di sì. Guarda, ti dico che vorrei preparare una bella puntata sulle multe, guarda un po'. E io guarda un po' sull'inquinamento. Eccoci. Adesso la pioggia cosa cambierà? Senza promettere nulla, ma ci proviamo. A domani.